ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Quella sera, verso mezzanotte, nacque la Catherine che lei, signore, ha visto a Cime tempestose. Era una cosina debole di 7 mesi. 2 ore dopo sua madre morì, senza mai aver ripreso coscienza abbastanza per avvertire la mancanza di Heathcliff o per riconoscere Edgar. Il mattino successivo, che intorno alla casa era luminoso e allegro, entrò dolce e furtivo attraverso le persiane della stanza silenziosa e soffuse con una luce tenera e calda il letto e colei che vi giaceva. Edgar Linton aveva appoggiato la testa sul cuscino e teneva gli occhi chiusi. Il suo viso, giovane e bello, sembrava senza vita, quasi quanto quello del corpo accanto a lui, quasi altrettanto immobile. Ma la sua era la quiete del dolore stremato. Quella di lei, invece, era la pace assoluta. La fronte distesa, le palpebre abbassate, un vago sorriso sulle labbra. Nessun angelo del paradiso avrebbe potuto essere più bello di lei. Io sentivo che bisognava dare ad Heathcliff quella terribile notizia e non vedevo l'ora di liberarmene. Lui era là, all'interno del parco, appoggiato contro un vecchio frassino, senza cappello e con i capelli bagnati dalla rugiada. Doveva essere immobile in quella posizione da molto tempo, perché vidi una coppia di merli intenti a costruirsi il nido passare e ripassare a pochi palmi da lui, incuranti della sua vicinanza, come se fosse stato un pezzo di legno. Al mio arrivo, invece, volarono via e lui alzò gli occhi e parlò. «È morta», disse. «Non c'era bisogno di aspettare te per saperlo. Metti via il fazzoletto. Non frignare davanti a me. Maledizione a tutti voi. Lei non sa cosa farsene delle vostre lacrime». «Sì, è morta», risposi, tenendo a freno i singhiozzi e asciugandomi le guance. «È andata in cielo, spero, dove potremo raggiungerla tutti quanti se abbandoneremo le vie del male per quelle del bene». «E ha mai pronunciato il mio nome?» domandò esitando Heathcliff, come se temesse che la risposta a questa domanda implicasse dettagli che non avrebbe sopportato di sentire. «Non è mai tornata in sé. Non ha più riconosciuto nessuno dopo che lei se n'è andato», dissi. «Ora riposa con un sorriso dolce. I suoi ultimi pensieri l'hanno riportata ai bei giorni di un tempo. La sua vita si è chiusa con un sogno amabile. Possa essere il suo risveglio altrettanto dolce nell'altro mondo». «Che possa essere un risveglio di tormenti», gridò lui con impeto. «Io ho una sola preghiera per te, Catherine Earnshaw, e la ripeterò finché non mi si seccherà la lingua. Che tu non possa riposare in pace finché io vivo. Hai detto che ti avrei uccisa, e allora vieni a tormentarmi. Le vittime lo devono fare con i loro assassini. Io credo, io so che di spiriti vaganti sulla terra ce ne sono tanti. Oh, resta con me. Prendi qualunque forma. Fammi diventare pazzo, ma non lasciarmi in questo abisso dove io non posso trovarti. Oh Dio, è orribile. Io non posso vivere senza la mia vita. Non posso vivere senza la mia anima». E sbatté la testa contro il tronco nodoso. Poi, alzando gli occhi, ululò non come un uomo, ma come una bestia selvaggia pungolata a morte. Il funerale della signora Linton doveva svolgersi il venerdì successivo alla morte e fino ad allora la bara rimase scoperta, cosparsa di fiori e foglie profumate nella sala grande. Linton trascorse lì giorni e notti come un guardiano insonne. E cosa che nessuno seppe mai, tranne me, Heathcliff trascorse le sue notti là fuori, ugualmente incapace di riposo. Non ebbi nessuna comunicazione con lui, però sapevo che sarebbe entrato se avesse potuto. E il martedì, poco dopo che era scesa l'oscurità, quando il mio padrone, stremato dalla fatica, fu obbligato a riposarsi per un paio di ore, andai ad aprire una delle finestre. Ero commossa dalla sua perseveranza e volevo concedergli la possibilità di dare l'ultimo addio a quello che restava del suo idolo. Lui non mancò di cogliere quell'occasione, rapidamente e con cautela, con tanta cautela che non il più piccolo rumore tradì la sua presenza. Anzi, non avrei scoperto che era stato lì se non avessi notato che i drappeggi attorno al volto della salma erano in disordine e che sul pavimento c'era un ricciolo di capelli chiari legati con un cordoncino d'argento. Lo osservai attentamente e capii che proveniva da un medaglione appeso al collo di Catherine. Heathcliff aveva aperto il ciondolo e gettato via il contenuto, sostituendolo con una ciocca dei suoi capelli neri. Intrecciai le due ciocche e le chiusi insieme nel medaglione. Naturalmente, signor Hindley fu invitato ad accompagnare i resti mortali di sua sorella alla sepoltura, ma senza mandare alcuna scusa non venne. Isabella non fu invitata. Quel venerdì fu l'ultima bella giornata che avemmo per un mese. Alla sera il tempo si guastò. Il vento girò da sud a nord-est e portò prima pioggia, poi nevischio e neve. Il mattino dopo nessuno avrebbe detto che c'erano state appena 3 settimane d'estate. Le primule e i crochi erano nascosti sotto cumuli di neve. Le allodole tacevano. Le foglioline precoci sugli alberi erano annerite e morte. E come spuntò lento, cupo, freddo e desolato quel mattino. Il mio padrone non uscì dalla sua stanza. Io presi possesso del salotto abbandonato e lo trasformai nella stanza della bambina. E me ne stavo lì, seduta, con quella bambolina piangente sulle ginocchia, e la cullavo, e intanto osservavo i fiocchi che ancora cadevano, accumulandosi sulla finestra, quando la porta si aprì e qualcuno entrò ansimando e ridendo. Per un attimo la mia collera superò lo stupore. Pensai che fosse una delle domestiche e gridai: «Piantala! Come ti permetti di ridere qui dentro? Che direbbe il signor Linton se ti sentisse?» «Scusami», rispose una voce familiare, «ma so che Edgar è a letto e non riesco a smettere». E con ciò la nuova arrivata si avvicinò al fuoco ansimando e premendosi una mano sul fianco. «Ho fatto una corsa da Cime Tempestose fin qui», continuò dopo una pausa. «Non potrei contare quante volte sono caduta. Mi fa male dappertutto. No, no, non allarmarti. Ti darò spiegazioni non appena ci riesco, ma fammi solo un favore. Va a preparare la carrozza per portarmi a Gimmerton e di alla cameriera di tirar fuori qualche vestito dal mio guardaroba». Quell'intrusa era la signora Heathcliff. A vedere il suo stato non c'era proprio niente da ridere. I capelli sciolti sulle spalle, gocciolanti d'acqua, indossava quel vestito da ragazzina che portava di solito, più adatto alla sua età che alla sua posizione, un abito scollato con le maniche corte e niente in testa né attorno al collo. Il vestito era di seta leggera e così bagnato che le stava incollato addosso e ai piedi non aveva che un paio di pantofole. Aggiunga tutto questo un taglio profondo sotto un orecchio, a cui solo il freddo impediva di sanguinare, una faccia bianca coperta di graffi e di lividi e un corpo a malapena in grado di tenersi in piedi. «Mia cara signora», esclamai, «non andrò da nessuna parte e non ascolterò nient'altro finché non si sarà tolta di dosso fino all'ultimo panno e si sarà messa dei vestiti asciutti. E di sicuro non andrà a Gimmerton stasera, perciò è inutile ordinare la carrozza». «Certo che ci andrò», disse lei, «anche a piedi, o a cavallo. Però non ho niente in contrario a mettermi dei vestiti decenti e... Oh, guarda il sangue come mi scorre giù per il collo adesso. Il caldo fa aprire la ferita. Prima di lasciare che la toccassi, volle che eseguissi i suoi ordini e solo dopo che ebbi detto al cocchiere di tenersi pronto e a una cameriera di preparare ciò che occorreva per il viaggio, ebbi il permesso di fasciarle la ferita e aiutarla a cambiarsi. «Ora, Ellen», disse dopo che ebbe finito e lei fu seduta in una poltrona vicino al camino, davanti a una tazza di tè, «siediti qui di fronte a me e ascolta». Ieri, come sai, il signor Hindley avrebbe dovuto essere al funerale. Si era mantenuto sobrio proprio per questo, tollerabilmente sobrio perlomeno. Aveva evitato di andare a letto rabbioso alle 6 del mattino e di svegliarsi ubriaco a mezzogiorno. Di conseguenza si è alzato con un umore da suicidio, si è seduto accanto al fuoco e si è messo a tracannare ginepro e acquavite. Heathcliff, il suo solo nome mi dà i brividi. Non si era fatto vedere in casa da domenica scorsa fino ad oggi. Hindley sedeva di fronte a me, reggendosi la testa con la mano. Aveva bevuto fin quasi a perdere la ragione e non si era mosso, né aveva parlato per 2 o 3 ore. Per tutta la casa non si sentiva altro suono che il mugolio del vento. Era tutto molto, molto triste. E io, leggendo, sospiravo perché sembrava che tutta la gioia fosse svanita dal mondo, per non tornarci mai più. Quel doloroso silenzio, alla fine, è stato rotto dal rumore del chiavistello della cucina. Heathcliff era tornato dalla sua veglia più presto del solito. La porta della cucina era chiusa a chiave e il mio compagno la stava fissando e si è voltato a guardarmi. «Lo lascerò fuori per 5 minuti», mi ha detto. «Ha qualcosa in contrario?» «No, per me può tenerlo fuori tutta la notte», ho risposto. «Lo faccia. Metta la chiave nella serratura e tiri il catenaccio». Hindley lo ha fatto prima che il suo ospite raggiungesse il lato principale della casa. Poi è tornato e si è sporto a guardarmi negli occhi, cercandovi qualcosa di simile all'odio che ardeva nei suoi. «Lei e io», ha detto. «Abbiamo ciascuno un grosso conto in sospeso con quell'uomo là fuori. Se non fossimo 2 vigliacchi, potremmo unirci e farglielo saldare. Lei è una mammoletta come suo fratello? Intende sopportare fino all'ultimo senza mai tentare di ripagarlo con la stessa moneta? Sono già stanca di subire», ho risposto, «e sarei contenta di vendicarmi se la cosa non ricadesse su di me». «Signora Heathcliff», ha esclamato Hindley, «non le chiederò di fare nulla, soltanto di restarsene ferma e muta. Me lo dica subito, lo farà? Sono certo che a lei farà piacere quanto a me assistere alla fine di quel demonio. Lui la farà morire se lei non lo anticipa e sarà la mia rovina, quella maledetta canaglia infernale. Bussa alla porta come se fosse già il padrone qui. Mi prometta di stare zitta. E prima che l'orologio batta l'ora, mancano 3 minuti all'1. Lei sarà una donna libera». E ha tirato fuori dalla giacca un coltello a serramanico. «Ho paura, Ellen, che mi riterrai davvero perfida. Ma non sai tutto, perciò non puoi giudicare. Per nulla al mondo avrei acconsentito a farmi complice di un delitto, neppure contro di lui, ma non potevo non desiderare di vederlo morto. E tuttavia, la faccenda andò in tutt'altro modo. La lama, scattando all'indietro, si è piantata nel polso di Hindley. Heathcliff l'ha tirata via a forza, squarciando la carne, e se l'è ficcata in tasca ancora gocciolante di sangue. Il suo avversario era caduto privo di sensi per il forte dolore e la perdita di sangue. Ma Heathcliff, quel farabutto, lo ha preso a calci, lo ha calpestato e gli ha sbattuto più volte la testa contro il pavimento. Ha dimostrato un autocontrollo sovrumano nel rinunciare a finirlo completamente. Ma alla fine, senza fiato, ci ha rinunciato e ha trascinato il corpo apparentemente senza vita sulla panca. Io sono corsa a cercare il vecchio domestico, il quale, non appena messo insieme i pezzi del mio discorso affannoso, si è precipitato di sotto, ansimando, mentre scendeva i gradini a due per volta. E adesso che altro succede? E adesso che altro succede? Succede che il tuo padrone è pazzo, ha tuonato Heathcliff, e che se campa ancora un mese dovrò farlo rinchiudere in un manicomio. Allora ha cercato di ammazzarlo, sbraitava Joseph, gesticolando inorridito. Mai vista una cosa simile! Poi ha cominciato a pregare a mani giunte e si esprimeva in modo così assurdo che io mi sono messa a ridere. Ero in uno stato d'animo tale che non mi impressionava più niente. Ero sconsiderata come uno di quei criminali che fanno gli spavaldi davanti al patibolo. «Ah, mi ero dimenticato di te», ha detto il tiranno. «In ginocchio. Tu sei in combutta con lui, contro di me, vero, vipera? Giù!» E mi ha dato uno scossone da farmi battere i denti e mi ha buttata accanto a Joseph e che, dopo aver concluso imperterrito le sue invocazioni, si è alzato proclamando che sarebbe andato alla Grange immediatamente. Il signor Linton era un magistrato e, anche se avesse avuto 50 mogli morte, doveva aprire un'inchiesta su questa faccenda. Hindley presto ha dato prova di essere ancora in vita. Joseph gli ha somministrato in fretta e furia una dose di alcol e con questo aiuto il suo padrone ha ripreso a muoversi ed è tornato in sé. Oh, se solo Dio mi desse la forza di strangolarlo con l'ultimo respiro che mi resta. Andrei all'inferno contento, ha brontolato esasperato Hindley, contorcendosi nello sforzo di alzarsi e ricadendo disperato quando si convinse di non essere in grado di affrontarlo. «Che abbia ucciso uno di voi è più che sufficiente», ho detto ad alta voce. «Alla Grange tutti sanno che sua sorella sarebbe ancora viva se non fosse stato per il signor Heathcliff. Catherine era felice prima che arrivasse lui e io maledico quel giorno». È assai probabile che Heathcliff abbia colto la verità di ciò che veniva detto, quasi senza rendersi conto dello spirito provocatorio della persona che lo diceva. Mi sono accorta che aveva sentito, perché dai suoi occhi sono cadute alcune lacrime sopra la cenere e respirava come se il pianto lo soffocasse. L'ho guardato in faccia apertamente, con una risata sprezzante. «Alzati, maledetta idiota, prima che ti pesti a morte!» ha gridato con un gesto che mi ha fatto arretrare. «In ogni caso», ho proseguito, tenendomi pronta alla fuga, «se la povera Catherine si fosse fidata di te e avesse assunto il ridicolo, spregevole e degradante titolo di signora Heathcliff, non avrebbe tollerato il tuo abominevole atteggiamento. Lei ti avrebbe fatto sapere quanto ti detestava e quanto la disgustavi». Lo schienale della poltrona e Hindley si frapponevano fra me e lui, così, anziché tentare di raggiungermi, ha afferrato un coltello dal tavolo e l'ha scagliato contro la mia testa. Mi si è piantato sotto l'orecchio, troncando la frase che stavo dicendo. Ma mentre lo strappavo via, sono balzata verso la porta e l'ultima immagine che ho di lui è mentre si lancia furiosamente contro di me, bloccato dal suo avversario, che gli si getta addosso e tutti e due cadono avvinghiati ai piedi del camino. Mentre attraversavo al volo la cucina, ho inciampato in Ayrton che stava impiccando una cucciolata di cagnolini. E beata come un'anima scappata dal purgatorio, sono volata giù per quella strada ripida, a salti e balzi. Poi ho abbandonato tutte quelle curve per tagliare direttamente attraverso la brughiera, ruzzolando sui declivi, attraversando a guado le paludi, precipitandomi verso la luce che segnalava come un faro la Grange. E preferirei essere condannata a restare per tutta l'eternità all'inferno, piuttosto che trascorrere un'altra sola notte sotto il tetto di cime tempestose. Isabella smise di parlare e beve un po' di tè. Poi si alzò, mi salutò e si diresse verso la carrozza. Se ne andò per non tornare mai più da queste parti. Ma quando le cose furono un po' sistemate, si stabilì fra lei e il mio padrone una corrispondenza regolare. Credo che la sua nuova residenza fosse nel sud, vicino a Londra, e lì nacque suo figlio, pochi mesi dopo la sua fuga. Fu chiamato Linton. E fin dall'inizio lei lo descrisse come una creatura malaticcia e bizzosa. Hindley fece la fine che ci si poteva aspettare. Morì poco dopo sua sorella, meno di 6 mesi fra l'uno e l'altra. Confesso che per me questo fu un colpo più difficile da sopportare che non la morte della signora Linton. Mi decisi a chiedere il permesso di andare a Cime Tempestose per aiutare a rendere gli estremi omaggi al defunto. Il signor Linton fu molto riluttante a darmi il suo consenso. Gli ricordai che il piccolo Herton era il nipote di sua moglie e che in mancanza di parenti più prossimi spettava a lui diventare il tutore e che aveva il preciso obbligo di informarsi circa lo stato della sua proprietà e occuparsi degli interessi di suo cognato. In quel momento non era in condizioni di badare a queste cose, ma mi disse di parlarne con il suo avvocato e alla fine mi permise di andare. Quando raggiunsi Cime Tempestose, spiegai che ero andata per accertarmi che tutto venisse fatto in modo decoroso. Il signor Heathcliff disse che non gli sembrava che ci fosse bisogno di me. Comunque, se volevo, potevo rimanere e dare le disposizioni per il funerale. Insistetti perché il funerale fosse dignitoso. Il signor Heathcliff disse che potevo fare come volevo, anche in quel caso. Solo desiderava che tenessi a mente che il denaro per tutta la faccenda usciva dalle sue tasche. Ebbe l'ipocrisia di fare la parte del parente in lutto e prima di uscire al seguito della bara insieme a Herton mise quello sfortunato bambino a sedere sul tavolo e brontolò con un gusto tutto particolare: «Ora, mio caro ragazzo, sei mio e vedremo se un albero non cresce storto come l'altro sotto la sferza dello stesso vento». Il povero innocente reagì con piacere a questo discorso. Si mise a giocare con i baffi di Heathcliff e gli accarezzò la guancia. Ma io capii che cosa intendeva dire e affermai con asprezza: «Quel ragazzo deve tornare con me alla Grange, signore. Non c'è niente al mondo che le appartenga meno di lui». «Bene», disse quella canaglia, «non staremo a discutere ora di questo argomento. Ma mi solletica l'idea di dedicarmi all'educazione di un bambino. Perciò fa sapere al tuo padrone che se cerca di portarmi via questo, sarò costretto a sostituirlo con il mio. Non mi impegno a lasciare andare via Herton senza discutere, ma sono sicura al 100% di far venire qui l'altro. Ricordati di dirglielo». Questo accenno fu sufficiente a legarci le mani. Ora l'ospite era il padrone di Cime Tempestose. La possedeva di fatto e dimostrò all'avvocato, il quale a sua volta lo dimostrò al signor Linton, che Hindley aveva ipotecato ogni metro della sua terra in cambio di denaro contante che gli permettesse di soddisfare la sua passione per il gioco, e lui, Heathcliff, era il beneficiario dell'ipoteca. In questo modo Herton, che adesso dovrebbe essere il primo gentiluomo della zona, venne ridotto in una condizione di totale dipendenza dall'inveterato nemico di suo padre e vive nella sua casa come un domestico e del tutto incapace di rimediare ai torti subiti, perché è solo e senza amici e non sa neppure di essere stato defraudato.